È chiaro che le categorie associate alle generazioni si estinguono quasi con le generazioni, Certo. però vi sono dei principi attivi, no? E la cosa che ha detto Pippo è vera, una cosa come la post-avanguardia era destinata quasi ad una sua dissipazione inesorabile, no? Poi Armando, mi piace anche raccogliere uno spunto da te, già? Perfetto. Lo dico perché voglio cercare di avere diversi punti di vista per poter non solo ancorare, ma meglio ancora, disancorare, non tenere ferma la questione, dinamizzarla a tal punto che i diversi punti di vista ci possano offrire delle letture ulteriori. Su questo aspetto, tu cosa hai da dirci? Che sei uno che arriva dopo, Molto dopo, no? perché io nasco nel 1969 e quindi vivo una situazione. Marco Giovinale, non tutti lo conoscono. Sì, io vivo una situazione diversa rispetto a chi fino adesso mi ha preceduto, tutte persone che stimo moltissimo e che veramente mi fa piacere di ascoltare qui. Io riassumo veramente per punti microscopici, perché ci sarebbe molto da dire soprattutto sulla, diciamo, cronologia di quello che è successo nell'ambito delle, scritture di ricerca, quindi delle scritture che non si definiscono più come d'avanguardia già dagli anni 1989-1993. Il gruppo 93 nasce esattamente come qualcosa che non è più legato all'avanguardia, che non è legato, anzi a volte si pone in maniera conflittuale e critica nei confronti del postmoderno. Tant'è vero che una delle definizioni, delle dizioni che sono state appunto create da uno dei protagonisti del gruppo 93, cioè Biagio Cipollaro, è postmodernismo critico. Questo in una rivista che si chiamava, che è una rivista che è uscita tra il 92, se non sbaglio, e il 96. Quindi si è chiusa nel 1996, dove appunto il gruppo 93 definiva i termini e i materiali. Quindi Si un chiamava approccio più Baldus. letterario e poetico. Esatto, esatto, esatto. E si chiamava Baldus la rivista e definiva il proprio approccio appunto alla scrittura di ricerca, alla sperimentazione, come un approccio critico anche nei confronti del postmoderno. Ma quindi diciamo la questione era già un po' per certi aspetti definita in quegli anni lì, nel passaggio dagli anni fine agli anni 80, inizio agli anni 90, ma il gruppo 93 si chiama così perché prende il nome non dalla sua fondazione come il gruppo 63, ma dall'anno in cui loro definivano e pensavano di chiudere i giochi loro. Quindi 1993 infatti loro si sciolgono come gruppo. Poi continuano indipendentemente Mariano Baino, Lello Voce, soprattutto legato all'ambito della performance, ma anche Mariano Baino stesso, che aveva una grossa esperienza teatrale precedente. Erano legati al movimento della Pantera o no? Dunque, sicuramente c'era una grossa sintonia, però nello stesso tempo il Movimento della Pantera aveva una sua indipendenza, anche perché era moltissimo legata alla rete dei centri sociali e quindi a una esplosione ulteriore di esperienze. La cosa interessante, allora io dovrei fare poi una cronologia che parte grosso modo dal 2003, cioè dalla nascita del momento, diciamo, dal momento esplosivo dei blog e dei siti, che è grosso modo unanimemente collocato a quell'anno del 2003, per arrivare poi al 2024, cosa impossibile nei pochi minuti che abbiamo. Però una cosa che mi interessa fare è fotografare proprio esattamente quel punto di passaggio tra fine anni 70, tutto l'arco degli anni 80 e la fine degli anni 80 come un momento in cui succede qualche cosa di particolare in ambito letterario, cioè succede qualcosa che non si era mai verificato prima. Praticamente l'ambito della ricerca letteraria, del gioco sul linguaggio, della ricerca di nuove forme di comunicazione e anche di diciamo, tentativo di sfruttare, per esempio, il ciclo stilato e i mezzi di comunicazione che erano stati ampiamente Cioè il sperimentati. passaggio dalle fanzine ai blog Esatto, è in beh, qualche modo che. ancora prima, perché adesso stavo cercando, perché con tutte le limiti del caso, di fotografare l'ambito appunto degli anni 80 barra 90. Che Posso cosa dire che succede? questa cosa che ci sta dicendo Marco ci aiuta a comprendere la cosa sua più interessante in assoluto, che non è la questione del teatro. Non è questione dell'esercizio più o meno qualitativo di un linguaggio specifico come quello della scena, ma riguarda l'umanità tutta, di come stiamo cambiando, della mutazione in Certo. corso. Quel passaggio dagli anni 80 ai 90, ancora più che dagli anni 70-80, è un passaggio verso un futuro digitale dove le categorie di riferimento iniziano ad andare in crisi molto molto più duramente, drasticamente, e in qualche modo i segnali vostri, penso al movimento della Pantera, al movimento studentesco degli anni 90, è stato quasi l'ultimo colpo di coda prima, purtroppo, dei No Global, certo, certo, del 2001, che forse è la pietra tombale dei movimenti. Poi sì, soprattutto ecco, con Genova chiaramente cambia radicalmente molto. E questo ci fa capire di come tutta la questione, concludo, ti ripasso la parola però per una chiusura brevissima, certo, in un minuto, certo, possibilmente, certo, ci aiuta a capire di come quella che io ancora insisto a definire l'avanguardia, poi quel processo di trasformazione, forse ancora più che culturale, antropologica. Stavamo cambiando tutti e noi in qualche modo eravamo le avanguardie di chi stava sperimentando quel cortocircuito tra linguaggio e comportamenti. Ma infatti secondo me, diciamo che adesso riarretrando ancora, secondo me per tanti aspetti, soprattutto io lo vedo dal punto di vista letterario, ma per il teatro grosso modo tutti gli anni 60 funzionano così, io collocherei proprio dal 1961 precisamente una sorta di sasso nello stagno. E inizia un vero e proprio cambio di paradigma, che poi si articola, come Nietzsche dice che la morte di Dio non è una cosa che si verifica una volta e siamo a posto tutti, è un processo che va avanti nei decenni, probabilmente nei secoli, non lo sappiamo, con chiaramente delle fortissime, dei fortissimi colpi di frusta che riportano all'indietro. Cioè quando Alfredo Giuliani dice nell'introduzione Nuovissimi la neoavanguardia stabilisce un linguaggio da cui non si può più tornare indietro, enuncia una grande utopia che non è affatto vera, si può e come tornare indietro. Noi vediamo politicamente, socialmente, una retrocessione delle strutture anche sociali che è spaventosa, e nei linguaggi non ne parliamo. Faccio soltanto questo brevissimo elenco e poi vi lascio e vi dico un'altra cosa alzandomi, dicendo che cosa succede nel ambito letterario tra la fine degli anni 70, nel corso degli anni 80 e con le sue code verso la metà degli anni 90. Succede che in letteratura gli editori, i direttori di collana, dopo la stagione dell'avanguardia, dopo la stagione ricchissima degli anni 70, pensiamo soltanto a quello che ha fatto il Mulino di Bassano, Adriano Spadola, Corrado Costa, Patrizia Vicinelli, eccetera, con i giovani anche Carlo Bordini, Daniela Rossi, eccetera, che cosa fanno Giorgio Messori? Cosa fanno i grandi direttori di collane, i grandi possessori dei poteri dei mezzi di comunicazione dell'epoca? Chiudono i canali. Chiudono i canali e c'è un grossissimo ritorno all'ordine. E questo non è accompagnato paradossalmente, qui faccio l'elenco e poi me ne vado, da una serie di eventi purtroppo tragici. E adesso ve li elenco brevemente. Purtroppo un elenco di morti: Adriano Spadola nell'88, Enrico Filippini nello stesso anno, Antonio Porta Maura nell'89, Giorgio Manganelli nel 90, Carmelo Samonà nel 90, Achille Cavellini nel 90, Corrado Costa nel 91, Patrizia Vicinelli nello stesso anno, come Luciano Arbizzani, Valerio Miroglio lo stesso, e lo stesso anche Pier Vittorio Tondelli, Stefano D'Arrigo, l'autore dei Fatti della Fera, poi sappiamo benissimo, 1992, Germano Lombardi nel 92, Silvano Martini nel 92, Gianni Sassi, il grande facitore di Milano, Alfabeta, Milano Poesia, ma muore nel 93, Testori, Giovanni Testori muore nel 93, Antonio Neiviller nel 93, Luigi Pasotelli lo stesso, Paolo Olponi nel 94, il fondatore del Verri, Luciano Alceschi, muore nel 95, per arrivare, adesso smetto, per arrivare al suicidio di Emilio Rosselli nel 1996. Poi le cose continuano, fino ai primi anni 2000 sappiamo la morte di Carmelo Bello. Succede una sorta di apocalisse che accompagna un ritorno all'ordine che era già in corso.